Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Kate dovette partire per 6 settimane nel suo paese ed erano d'accordo che Jim l'avrebbe accompagnata. Ma quando Jim l'avvertì che sarebbe rimasto con lei per soli 5 giorni, Kate partì senza di lui. Altra grande frattura. Lei non gli scrisse, né lui scrisse a lei. Jim credette ancora una volta che tutto fosse finito. È bello non avere né contratti né promesse e fare affidamento un giorno dopo l'altro solo sul proprio amore. Ma quando soffia il dubbio, si brancola nel vuoto. Lacerazioni. Un piccolo rimorso d'amore senza importanza che era diventato grande come una quercia. Giornale rurale. Jim ebbe il tempo di riflettere. Aveva portato intorno a sé la desolazione, volendo portare la gioia. Certo, ci vogliono pionieri che tentino strade nuove, ma devono essere umili e senza egoismo. Lui era stato leggero. Doveva adesso ridurre pezzo per pezzo il dolore di cui era stato causa, pagando prima degli altri il primo dei suoi debiti. La promessa che aveva fatto a Gilbert di invecchiare insieme era presente alla sua coscienza, ma era senza data e poteva rinviarla all'infinito. Era una cambiale falsa. Doveva dunque promettere a Gilbert di sposarla se lei lo desiderava e quando lo desiderasse. Non aveva più nessuna speranza di sposare Kate. Trovò in un romanzo che Kate gli aveva prestato un passo sottolineato da lei. Una donna fantasticava di darsi durante un viaggio in nave al suo vicino di cabina. Jim ne fu colpito come fosse una confessione. Era questo il modo che Kate aveva di esplorare l'universo e comportava necessariamente dei passaggi dalla fantasia alla realtà. Anche a Jim capitava di avere quei lampi di curiosità. Forse tutti ne hanno. Ma lui li dominava per Kate e non era affatto sicuro che Kate li dominasse per lui. Kate tornò e rimase parecchi giorni senza chiamarlo, il che rafforzò la decisione di Jim. Quando lo fece gli parlò freddamente. Jim ne approfittò per dirle, non fosse altro per metterla a suo agio, quel che aveva pensato di fare per Gilbert. Erano nella loro auto, Kate guidava. Sembrò dapprima che non avesse sentito. Poi la macchina sbandò forte. Jim afferrò il volante. Lei disse a Jim: «Visto che hai avuto quest'idea, bisogna che tu la metta in atto. E anche se ci ripensassi, io ti costringerei a farlo». Jim disse che Gilbert non sperava in un cambiamento immediato nella loro vita. Si aspettava da parte di Kate una reazione di ironia, di violenza, un congedo, e invece no. Eppure lei gli aveva dichiarato qualche tempo prima: «Ora che ti amo di meno», quasi peggio che dire «ora che non ti amo più». A breve o a lungo termine il loro avvenire si sarebbe interrotto. Kate aveva fatto volteggi con l'irreparabile, senza aver mai spezzato niente in Jim, credeva lei. Ed ecco che Jim ci provava a sua volta e riusciva al primo colpo. Cercavano sgomenti un possibile rifugio. Non lo trovavano. Si rifugiarono una volta ancora per abitudine l'uno nell'altro, ma come due condannati. Ebbero una di quelle loro riprese di cui sarebbero dovuti morire. Kate la notte ripeteva distintamente nel dormiveglia: «Gilbert non spera in un cambiamento immediato». Fece di tutto per vedere Gilbert con o senza Jim. Scrisse a Gilbert delle lettere calme, poi esaltate, un misto di franchezza e di ironia. Jim la lasciò fare. «Che decidano quello che vogliono», pensava. «E io lo farò, fosse pure un colloquio a tre, questo scontro fra due mondi. Ma che si sopportino come Jules ed io e che io non abbia più rimorsi verso l'una quando l'altra sorride». La notte Jim si immaginava quel colloquio. Non era mai uguale. A volte le due donne si alleavano contro di lui, a volte dopo essersi ben studiate capivano e si accettavano. A volte Kate colpiva Gilbert che si difendeva. Jim fece un sogno. Le vedeva come due lunghe masse di nuvole che si scambiavano fulmini e scivolavano lente come bisce, secondo strategie che Jim non capiva. Gilbert rispose a Kate con una lettera pacata, che non l'avrebbe vista mai, che non voleva dare un volto al suo tormento. Kate trovò la lettera tornando a casa, tardi. La lesse e saltò in macchina. Jim era a casa sua e stava per addormentarsi. Gli sembrò di riconoscere in lontananza il clacson della loro macchina e il richiamo ritmato di Kate. Corse al balcone. Dapprima non vide niente. Poi scorse l'auto di Kate che si muoveva tra gli alberi sul terrapieno, errava sulla piazza deserta, scendeva in mezzo alla strada, saliva sui marciapiedi, sfiorava panchine, lampioni, come un cavallo senza cavaliere, come un vascello fantasma. Alzò le braccia e chiamò con tutte le sue forze. Invano. Lei imboccò un viale e si allontanò. Non un solo taxi alla stazione di fronte per inseguirla. Il giorno dopo Kate non parlò di niente. Jules venne a passare 2 giorni a Parigi. Tutti e due, separatamente, gli parlarono delle loro angosce. Lui si ricordò del tempo in cui era innamorato, evitò di dare giudizi. Aveva una grande camera a un 7° piano, ma Kate ci tenne a cedergli la sua accanto a quella delle figlie e se ne andò a dormire in albergo con Jim. Ebbero un breve momento di oblio totale, si libravano nella pace. Non chiamarono la cameriera per tutta la giornata, non mangiarono che se stessi e 2 panini che Jim aveva in tasca. Ma anche quell'ultimo bastione del loro amore fu attaccato. Arrivò un'amica di Kate, una dottoressa discepola di Freud, e la vide spesso. La interrogò secondo il suo metodo. Kate le fece delle confidenze sulla sua vita intima con Jim, cosa che Jim detestava. L'amica disse a Kate: «Non bisogna continuare così. Questo dà a Jim un'influenza eccessiva. Bisogna cambiare questo dato punto». Kate avvertì Jim e cambiò quel punto. Ora quel tale punto era, a loro insaputa, essenziale almeno per Jim. E senza che lui lo volesse, questo cambiamento recise il midollo del loro rapporto. Il loro blocco era incrinato. Era come una luna rotta, intatta in apparenza, che continuasse a girare attorno alla terra, coi suoi 2 frammenti, uno attaccato all'altro, ma pronti a separarsi al primo urto. Jim vide un disegno di villette in cui un ubriaco picchiava con una bottiglia vuota la giovane e bella moglie. Sotto si leggeva: «È duro da uccidere un amore». «Ah sì», sospirò Jim, «quanto è duro. E se non fosse possibile affatto?» Si ricordò di una commedia cinese nella quale, all'alzarsi del sipario, l'imperatore si china verso il pubblico e gli confida: «Voi vedete in me il più infelice degli uomini, perché io ho 2 spose, la prima sposa e la seconda sposa». Avrebbe potuto dirlo anche lui. Al tempo stesso sentiva tutta quella sofferenza come superflua, come un residuo di epoche remote, e gli sembrava che non avesse niente a che fare con l'amore. La chiave che tintinna. Non c'è 2 senza 3. Jim fu presentato un giorno, suo malgrado, che non gli andava di incontrare facce nuove, a una ragazza silenziosa, quieta, diafana, però con dei fianchi materni e che gli sembrò nell'ombra della morte. Si chiamava Michelle. La rivide. Con lei dimenticava il conflitto fra le altre due. Era in pace. Lei gli raccontava la sua vita, lui le raccontava la sua. Erano 2 vite accidentate come le linee delle loro mani. Si mostravano le fotografie della loro infanzia. Lei aveva una biblioteca piena di stampe antiche tra le quali gli faceva da guida. No, non stava morendo di una malattia, ma solo del non aver trovato una ragione di vivere. Jim andò spesso da lei. 3 mesi più tardi, la madre di Jim si spense dopo una dura agonia. Jim passò le ultime settimane accanto a lei. Fino alla fine, l'indice della madre, posato sul lenzuolo, fece leggermente segno di no quando il medico o l'infermiera si avvicinavano per farle un'iniezione. Non voleva che le si velasse la propria morte. Jim volle restare solo accanto al corpo della madre. Rivide la loro vita insieme, la capì meglio. Rilesse un libricino in cui lei parlava di Jim bambino. Avrebbe mai avuto un figlio lui? Gilbert andò a vederla la mattina, Kate il pomeriggio, Michelle la sera. Restarono in silenzio tutte e 3 e furono perfette ciascuna a modo suo. Ognuna di loro meritava meglio di un Jim. Gilbert semplice, Kate intensa. Jim ebbe l'impressione che Michelle parlasse con sua madre. Di che cosa? Ebbe un lampo. Era Michelle che doveva fare un figlio. Quel figlio l'avrebbe trattenuta su questa terra. Se ne fosse morta, ne sarebbe morta contenta. Le forze e le debolezze di Michelle non erano dello stesso genere delle sue. Non si sarebbero sommate, si sarebbero compensate. Il figlio che avrebbe avuto sarebbe stato migliore di loro. Gilbert era stata troppo fragile. Kate e lui, senza volerlo, i loro figli li consumavano. Michelle avrebbe capito. Per Gilbert? Decise di dire tutto a Michelle e di chiederle se accettava. Lo fece. Lei disse sì. Bisognava annunciarlo a Kate e a Gilbert. Un bel mattino, svegliandosi, Jim disse a Kate che doveva farle un lungo discorso. Le bambine e Matilda erano in viaggio, erano soli. Si sistemarono comodamente nel loro letto. Kate conosceva l'esistenza di Michelle solo come collaboratrice di Jim in qualche affare d'arte. Jim le raccontò scrupolosamente tutta la sua storia con Michelle, le disse del loro desiderio di avere un figlio e il perché. Kate ascoltò quieta fino in fondo, benevola, come stupita, e disse: «Che bella storia, Jim!» Jim non riusciva a crederci, non aveva mai capito Kate. Poi le lacrime cominciarono a scorrere sul viso di Kate, immobile. Infine lei cominciò sottovoce a indignarsi. «E io, Jim, e io, e i figli che avrei voluto avere? Tu non li hai voluti, Jim?» «Sì, Kate, perdutamente!» E gli bruciarono gli occhi. Kate era come un agnello portato al sacrificio. «Sarebbero stati belli, Jim!» E Kate ebbe un singhiozzo. Jim avrebbe voluto non essere mai nato. Faceva respiri profondi, come succedeva a Kate qualche volta la notte. «Io sono una madre, Jim. Innanzitutto una madre.» Jim pensò alle sue due figlie uniche. Stava per parlarle ancora dei loro mortali malintesi. Kate non ascoltava più. Pensava, sola. Il viso impallideva, gli occhi si infossavano. Diventava una gorgone. Ognuno dei due vedeva nell'altro l'assassino dei loro figli. Kate disse piano: «Adesso tu morirai, Jim. Dammi la tua rivoltella. Adesso io ti uccido, Jim.» Jim pensò di farlo, perché fosse finita. Si sarebbe disprezzato se non l'avesse fatto. Kate continuava a chiedere la rivoltella come una malata, meravigliandosi che Jim indugiasse. Si drizzò a sedere, guardò Jim, lo vide esitare. «Sei un vigliacco, hai paura. È il momento.» Capì che Jim non voleva. Saltò giù dal letto, in un attimo fu alla porta, la chiuse a doppia mandata e lanciò la chiave dalla finestra. La sentirono tintinnare sul selciato del cortile. Poi si diresse al suo secrétaire. La sua rivoltella doveva essere lì. Jim capì, le sbarrò il passo. Lei si fece terribile. Jim ebbe paura. Era chiuso là dentro con una forsennata. Lei avanzò su di lui e lo assalì con le unghie, coi denti, con tutto. Jim le afferrò una mano, lei si svincolò senza difficoltà. Le sue dita erano in quel momento più forti di quelle di Jim e quasi gliele torsero. Sarebbe stato comunque meno arduo resistere ai suoi colpi che alle sue lacrime. Kate si avventò su di lui. Jim, molto a malincuore, la colpì al mento forte quanto bastava. Lei vacillò. Jim la portò sul letto, le applicò sul viso un asciugamano bagnato. Kate tornò in sé, disse qualche parola. La crisi di violenza era passata. Ore pesanti passarono. Kate era una vittima convalescente, Jim un infermiere assassino. Pensavano, senza più scambiarsi i pensieri. A Jim sembrava che nell'aria si formassero cristalli. La porta era sempre chiusa a chiave. Telefonavano di tanto in tanto all'amica di Kate, ma quella non rientrò a casa per il pranzo. Jim teneva d'occhio Kate appena lei si avvicinava al secrétaire. Si affrontarono così fino al crepuscolo. Finalmente l'amica rispose. La pregarono di andar lì, raccogliere la chiave e aprire. Lei lo fece, la misero al corrente. «Siete un criminale?» disse a Jim. «Su questo sarete d'accordo con me?» Jim alzò un sopracciglio e non rispose. «Kate ha tutto il suo sangue freddo, ci sono delle conclusioni da trarre dalla vostra rottura.» Kate e Jim non fiatarono. Jim sentì che la parola «rottura» dava piacere a quella donna. Di che si mischiava? «Kate non mangia da ieri», continuò l'amica. «Non vorreste andare a prendere qualcosa per la cena?» «Sì», disse Jim. «Ma preferirei portar via la rivoltella.» «Qui non ci sono rivoltelle», disse Kate. «Lo giuri?» disse Jim, stupito. «Lo giuro.» Jim corse al segretario, abbassò il ripiano, aprì due cassetti, trovò la rivoltella e se la mise in tasca. Già Kate gli era addosso, la respinse. Ricominciavano a battersi? No. Kate ebbe un sorriso che significava: «Boh, ho tutto il tempo.» Jim andò a prendere la cena, la portò. Era l'ultima. Mangiarono quasi in silenzio, senza fretta. Jim si congedò. Avrebbe dato a Kate il bacio di arrivederci mai dimenticato. Lei tenne lontano il viso e si strinsero la mano. Jim avrebbe aspettato che Kate lo chiamasse. Il secondo tuffo nella Senna. Kate telegrafò a Jules: «Bisogno di te, vieni.» Jules fu seccato, prese il treno brontolando. Pensava: «Kate non dice perché, deve essere a causa di Jim, potrebbero anche lasciarmi in pace.» In treno si addormentò, vide un grande cavallo sauro che galoppava, Una cavallina gli si affiancò, veloce quanto lui. Ora l'uno, ora l'altro era in testa. Ogni tanto si fermavano, si annusavano, si mordevano, si davano calci. Poi riprendevano quella corsa indiavolata. Saltavano muri sempre più alti, superandoli di un pelo sotto un cielo nero. Dimagrivano di fatica, avevano il pelo lungo e fitto e c'erano riflessi d'incendio nel soffio delle loro narici. Jules si svegliò. Jim accetta adesso la libertà di Kate come ho dovuto accettarla io molto tempo fa. E questo Kate non lo perdonerà mai. Jim è stato per Kate facile da prendere, difficile da tenere. L'amore di Jim crolla a zero quando quello di Kate crolla a zero. E risale a 100 assieme a quello di Kate. Io non ho mai conosciuto né il loro 0 né il loro 100. Perché Kate, che tutti volevano, ha fatto malgrado tutto a noi due il dono della sua presenza? Perché noi avevamo per lei un'attenzione totale, come per una regina. Perché siamo stati noi due che l'abbiamo meglio, come suol dirsi, amata. Si ricordò della partita a domino con Jim nel treno che li portava verso Lucie. Che cosa sarebbe accaduto se Lucie avesse accettato di sposarmi? Io parlavo troppo, ero fiero della mia intelligenza. Avrebbe saputo Lucie, con la sua saggezza, di rozzarmi come ha fatto Kate? Che cosa avrebbe escogitato? Che genere di coppia saremmo stati? E Jules si vedeva, vecchio come il padre di Lucie, passeggiare nel parco della Casa Bianca, al braccio di Lucie invecchiata che levava su di lui uno sguardo attento e benevolo. Era troppo bello. Si vide allora nella grande casa di Lucie sposata con Jim. Avevano dei figli, tutto scorreva in modo calmo e piano. Tutti lavoravano in una quieta allegria, erano coscienziosi e puntuali, perfino Jim. Jules era amato da tutti. Si ricordò poi dell'unica sua notte con Odile, una volta che era passata per Parigi, quando tutto era ormai finito fra lei e Jim. Era stata lei a fargli violenza, e alla fine Jules l'aveva lasciata fare. Ne aveva provato la meraviglia di un bambino davanti all'albero di Natale, e non avevano mai riso tanto. Ma una notte come quella a Odile bastava, e forse anche a lui. Era un assaggio che Jules aveva raccontato a Jim, e Odile ne diede una descrizione alle ragazze del caffè, che fecero a Jules complici strizzatine d'occhi. Kate. In lei aveva incontrato il reale, e vi si era spezzato contro. Appena Jules fu arrivato, Kate gli domandò dei consigli d'affari, cosa che non lo convinse troppo. Gli chiese di telefonare a Jim per invitarlo a fare un giro tutti e tre quel giorno stesso nel suo cabriolet. Fece in modo da evitare che Jules e Jim parlassero da soli. Jim accettò. Quale sarebbe stato il programma? Kate giocava con la velocità della sua macchina e commetteva impercettibili imprudenze. Jules era seduto dietro, come sempre. C'era nell'aria una sorta di attesa, come il giorno della passeggiata in riva al lago, prima dell'incontro con Harold. Arrivarono in riva alla Senna, all'estrema periferia. Kate disse a Jules: «Se vuoi essere a Parigi in tempo per cenare con quel tuo amico, puoi prendere il treno in questa stazione, Jules». E fermò a un incrocio. Jules scese, si accostò allo sportello. Lei lo baciò con aria grave. Poi gli disse con gli occhi che brillavano: «Guardaci bene, Jules». E ripartì portandosi Jim. Invece di seguire sulla destra la bella strada che costeggiava il fiume, Kate continuò dritta e si inoltrò sul ponticello in riparazione. Jim stava per domandarle: «Perché vai di qua?» Ma dopo tutto per lui era lo stesso. Jules li guardava. Il fondo e il piccolo marciapiede del ponte erano fatti di assi incatramati di fresco. Al centro del ponte, sulla sinistra, c'erano una trentina di metri senza parapetto e più in là degli operai stavano lavorando. Kate strinse a sinistra e la ruota anteriore sfiorò il bordo del marciapiede. Jim ebbe un sospetto. Kate riportò la macchina a destra. I 30 metri erano quasi passati. Lei accelera, sterzando tutto a sinistra. La macchina salta sul marciapiede, una ruota poi l'altra verso il vuoto. Troppo tardi per raddrizzare, anche se fosse stato Jim a guidare. E guidava Kate. Qualunque gesto sarebbe stato inutile, allora tanto valeva non farne. La rete di Kate era ben tesa, nessuna via d'uscita. Jim aveva temuto altre cose, non quella. E lei lo accompagnava. Ah, dunque lo amava. Allora lui amava lei. Kate gli rivolse uno sguardo cameratesco e malizioso, come se avessero il tempo, come se partissero insieme ancora una volta per un bel viaggio. Diceva quello sguardo: «Lo vedi, Jim? Stavolta ho vinto!» Il sorriso arcaico non era mai stato così puro. Kate rovesciò l'auto come una carriola. Un urlo di Jules tracciò su loro tre un triangolo di fuoco. I secondi si moltiplicavano per mille. Si distese una mirabile quiete. Il paesaggio si capovolgeva. Jim sentiva Kate accanto a sé come un idolo rosso che lo attirava come una calamita. Si lasciava cadere verso il suo splendore. Sui fianchi di lei, raggomitolati nell'ombra, due grandi ragni chiari, ma no, si muovevano. Erano le mani di Harold. Il forno crematorio. Jules ebbe un presentimento quando Kate gli disse «Guardaci bene» e un attimo di angoscia quando notò l'assenza del parapetto. Ancora una volta Kate aveva preparato il suo colpo. La prima sbandata a sinistra fu timida, ma la seconda gli strappò un grido e la macchina fece un tuffo nell'acqua. Kate sapeva scegliere, non l'ora giusta, ma, meglio ancora, l'attimo giusto. Jules sperò ancora in un Jim che saltava fuori, in una Kate che si districava e nuotava come un'anguilla. Ancora una bella trovata per fargli paura. La macchina, capovolgendosi, piombò su Kate e Jim come un coperchio. Fece un pluff che sollevò spruzzi d'acqua nella senna in piena e non riapparve nulla. Jules non avrebbe avuto più quella paura che si portava dentro dal giorno in cui aveva conosciuto Kate. Da prima che lei lo tradisse, poi solamente che morisse, perché era successo. Kate e Jim erano nel sudario dell'acqua, non abbracciati eccezionalmente, ed erano morti perché si erano sciolti da quell'abbraccio. Ritrovarono i corpi impigliati nei cespugli di un isolotto sommerso dall'inondazione. Jules li accompagnò da solo al cimitero. Cosa aveva amato in loro? Quel loro andare fino in fondo, passando sopra a tutto, sopra Jules, sopra se stessi. Il loro spirito corsaro, il loro lato Jean Bart, diceva Kate. Ma perché non avevano avuto dei figli che portassero il suo nome, visto che lui era d'accordo? Di loro non lasciavano niente. Lui, Jules, aveva le figlie. Tutto quel che è accaduto, si diceva, fra i due tuffi nella Senna. Il primo per avvertirmi e per sedurre Jim, il secondo per punirci e per voltare pagina. Rivedeva la Kate dei primi tempi che ancora non conosceva il gusto del sangue, Kate allegra che vinceva le corse partendo al 2, Kate generosa e irresistibile, Kate severa, invincibile, Kate Alessandro Magno, Kate Rosa dei Venti, Kate che per un breve momento lui era riuscito a disarmare con una resa senza condizioni, Kate che un bel giorno l'aveva aggiogato come uno schiavo al suo carro trionfale. Fianchi di Kate luminosi e lontani durante la guerra, la prima licenza, fiasco del suo pseudoeroe. L'inanità della coppia che avrebbero formata presentita da Jim, eppure loro due avevano avuto insieme alle origini una grande felicità di bambini che sfuggiva a Jim. Lui e Jim per 20 anni non avevano avuto un solo scontro. Constatavano le loro divergenze con tenerezza. Accade questo in amore. Jules si chiese se esisteva una coppia che si accettasse come lui e Jim. Jim gli aveva preso Lucie e Kate. No, Jules le aveva date a Jim per non perderle e perché erano un bel regalo. Jim attingeva in loro la sua sicurezza e loro si nutrivano di Jim con una calma che consentiva a Jules di contemplarle. Kate e Jim avevano spinto all'estremo il loro culto reciproco che si era logorato diventando quotidiano. Avevano amato la lotta per la lotta? No, ma ne avevano stordito Jules fino alla nausea. Lo invadeva un senso di sollievo. Il furgone stava arrivando al forno crematorio. Jules entrò nel secondo recinto. La bara di Jim era ancora più lunga di quanto fosse lui. Quella di Kate in confronto sembrava uno scrigno. Volarono in fiamme via via che entravano nella gola accecante dei forni. In capo a un'ora il carrello di ferro fu tirato fuori. Lo scheletro di Kate, sbiancato dal calore, suggeriva ancora la sua forma. Somigliava a una martire in trionfo. Si spense e cadde in polvere. Restò un pezzo del cranio, friabile. Un martello d'argento lo finì. Poi fu la volta del lungo Jim, altro martire. Anche del suo cranio rimase una scheggia. Le ceneri furono raccolte in due urne e riposte in un loculo che venne sigillato. Fosse stato solo, Jules le avrebbe mischiate. Kate aveva sempre desiderato che le sue fossero gettate al vento dall'alto di una collina, ma non era permesso. Il diario intimo di Kate è stato ritrovato e verrà forse pubblicato un giorno.